15 anni fa il gruppo Alcolico Quareggio cantava una canzoncina sotto al palco prima di cominciare. Avanti del gruppo Alcolico. Sione di scoppiati, veniamo a Reggio Emilia, siamo tutti alcolizzati. La la la la la la la la la la la. A tutti voi.